Musica Maestro di Armando Turno. Un cordiale saluto da Armando Turno e un augurio di buona domenica a tutti i nostri ascoltatori. La puntata di oggi è un po' particolare, anche perché in studio, abbiamo qua in studio venuto a trovarci il maestro Donato Renzetti. È qua con noi, è uno dei più celebri direttori d'orchestra del nostro tempo, anzi potremmo dire che è tra i direttori d'orchestra italiani più affermati nel mondo. Io non conosco teatro importante dove non abbia diretto, dall'America ai vari continenti, e tra l'altro ho un appuntamento all'inizio di luglio alla Scala con Rossini. Ma come definirlo? Io penso che lui sia talmente disponibile, talmente bravo, talmente umano che potremmo chiamarlo l'antidivo, ma anche un grande conoscitore, un grande amatore della musica. Poi posso commettere degli errori nel fare l'elenco delle sue qualità. In ogni caso comincio. Buonasera maestro. Beh, intanto buonasera, dopo questa presentazione insomma, non è facile, la ringrazio moltissimo, è un po' troppo. No, sì, però io non conosco teatro importante al mondo dove lei non abbia... Ci sono certamente. Sì, magari in qualche foresta del Sud America, non so. Ero stato invitato a Manaus dove c'è la nazionale di calcio oggi, però diciamo che effettivamente sì. Sono 40 anni quasi. E 40 anni. Non sono così vecchio, però 40 anni di carriera. E prima, intanto ha solo qualche anno più di me, maestro, quindi praticamente un giovanotto. Non so quanti anni abbia lei, però. Però insomma, siamo dei giovanotti da questo punto di vista. Diciamolo. Però so che prima ha suonato anche nell'orchestra della Scala. Prima ma di io ho fatto tantissime cose. Siccome ero percussionista, ho suonato jazz qui a Milano in un locale, non dico il nome per pubblicità, e poi dopo da bambino. Il destino mi ha portato con la percussione, questo strumento che allora era l'ultima ruota del carro, se vogliamo, perché chi suonava cassa, piatti, triangolo non era così tanto considerato. Ma negli anni 62-63 cominciavano ad arrivare le cosiddette musiche contemporanee e gli organici delle orchestre non avevano questo tanti percussionisti da poter ingaggiare. Al conservatorio, lei pensi, noi eravamo solamente in due, quindi la Scala, mi ricordo ancora nel 63, chiese al conservatorio di se c'erano degli studenti di percussione, così iniziai subito. Maestro, tra l'altro so che lei ha giocato anche nel Milan? Beh, vabbè, però la grossa, ho fatto un provino, ho fatto un mesetto, però purtroppo a Milanello non c'era la musica, io volevo fare il musicista, la sola ragioneria matematica. No, anche perché ogni volta... Tutto, tante cose, sì. Ecco, ogni volta noi chiediamo appunto anche il tifo calcistico, perché a parte... Ma io sono un grande tifoso del Milan e ho messo, cioè, mi hanno messo le prove in base a tutti le varie in base partite. Alle partite. Senta, appuntamento alla Scala all'inizio di luglio con Rossini. Sì, intanto visto che sono stato in questo teatro, perché dopo aver cominciato come aggiunto vinsi poi il concorso e quindi entrai stabile nell'orchestra della Scala come percussionista, sono stato 18 anni, non poco, e quindi il ritornare non è la prima volta, perché sono tornato già 3 volte alla Scala, ma il ritornare ogni volta è per me motivo di grandissima emozione, anche se l'orchestra è cambiata, sono rimasti soltanto un paio di miei vecchi colleghi. Colleghi e anche la struttura stessa è cambiata, però è sempre la Scala. La Scala è sempre la Scala, certamente. E questo Rossini come lo sta preparando? Tra l'altro all'Ansaldo, io sono venuto l'altro giorno a cercarla alle prove in questo laboratorio dove lei e chiaramente... Anche lì è nuova, perché quando ero io in un'orchestra al teatro facevamo tutto sempre nella fossa, il golfo mistico, provavamo sempre lì, invece so che da tanti anni, non dico qua, non lo so quanti, si prova in un'altra sala, quindi questo Ansaldo dove facevano dei treni, no? Sì, beh, facevano... Costruivano cose grosse, insomma. Ma è tutto cambiato, un altro mondo e si continua, e bene da certi versi, meno bene per altri, però la musica vince sempre. Ecco, la musica vince sempre, maestro, e poi cosa vince nella vita per lei? Perché una persona come lei è, diciamo così, è abbastanza unica anche per il coraggio che sa infondere. Io la ringrazio perché... Io ho visto come ha salutato la redazione, qui è venuto in radio, ha salutato tutti, si è complimentato del fatto che c'erano molti giovani. È vero. Sono ha detto, guarda, il più vecchio sono io, infatti ho detto questa sera. No, forse lo sono io. No, beh, ma d'accordo. No, ma è così. e io insegno anche da tanti anni, un'attività didatta da 26 anni già, isola abruzzese, nella mia terra, ho questa Accademia Musicale Pescarese, dove tra l'altro sono usciti tantissimi direttori che sono anche famosi oggi nel mondo, quindi per me è una grande soddisfazione vedere i giovani che continuino, cercano di continuare una tradizione che forse si sta anche perdendo, e parlo sempre della nostra opera. Maestro, senta, tra tutti i musicisti che lei così ha diretto, ha studiato, adesso è la volta di Rossini. Lei ha dei meriti con Rossini, ma devo dire, perché non c'è autore che lei non abbia. No, ma io credo, sai, il compositore direttore moderno deve spaziare in vari campi. Ci sono i settoriali, i direttori che si occupano solamente del barocco, solamente della musica contemporanea, ma credo che un direttore vero deve fare il contemporaneo, Verdi, Puccini, Wagner, Strauss, e questa è la nostra operazione. Senta maestro, faremo ascoltare note da lei dirette soltanto nella tranche successiva, perché diciamo così, questa sera abbiamo deciso la prima tranche, essendo Donato Renzetti un po' l'incarnazione della musica. Beh, non abbiamo detto, beh sì, insomma, lei è la musica, si antidivo, sente antidivo, sì, antidivo, ecco, come diceva lei però, prima, sì. Però ho detto, deve farci qualche piccola confessione. Senta, tra tutti i cantanti, parliamo di persone magari che sono scomparse eccetera, vuoi ricordarne magari uno, non so, dalla Callas alla Tebaldi, da Karajan, beh, chi, diciamo, non so che io cosa. Io ho due tranche di mia attività, quella uditiva, che dall'Orchestra della Scala ho sentito, diciamo, in quei periodi storici dal 62 fino, mettiamoci anche l'80, tutti i grandi cantanti, dalla Scotto, dalla Stella, anche la Calla, Callas era già venuta prima, quindi mi sono fatto le ossa in quel senso, e poi li ho diretti più avanti. Ero giovane direttore con i grandissimi cantanti come poteva essere Giaurov, Cappuccilli. Ecco, Cappuccilli, visto che mi ha chiesto un nome, era uno dei miei preferiti, parlo di baritoni, perché abbiamo lavorato abbastanza insieme, come anche Giaurov. E mi ricordo un episodio simpatico: io ero giovanissimo, eravamo a Chicago e loro volevano andare sempre allo zoo con me, io volevo starmene a casa, mi telefonavano, venivano a prendere, andavamo sempre allo zoo, io, Cappuccilli e Giaurov, fa vedere il gorilla che che c'è ancora oggi, forse, non lo so tutto. Del resto la strada è uno dei miracoli forse cinematografici del nostro neorealismo. Anthony Quinn anche in quel periodo era in auge, e quindi fu uno dei film, credo, e forse anche per la colonna sonora, come è accaduto per tanti film successivi di tanti grandi, la musica fa grande anche il film. So che lei ha conosciuto bene anche Sordi. Ma bene, Sordi una sera, dovrei raccontare tantissime storie, no, ma io ho spaziato nella musica leggera e al teatro, ho collaborato con grandi, Carmelo Bene, Dario Fo, ho fatto tantissimi spettacoli con Dario Fo, Carmelo Bene, un Manfred meraviglioso alla Scala, e stetti proprio un mese con lui, non mi lasciavano, ero molto giovane, forse anche simpatico, non mi lasciavano, mi raccontavano tante cose, e Carmelo Bene parlava moltissimo anche del Milan, di cui sono milanista, e quindi l'ha già detto, l'ha già detto, lo ribadisco, c'è una par condicio sulle squadre di calcio, vabbè. mi tolgo una fetta di tre spettatori in negativa, no, assolutamente, e quindi indubbiamente poliedrico in tutto, eh? Ecco, e quindi Sordi una sera, e poi un suo ricordo magari così che questa sera vuol regalare agli ascoltatori, magari una persona particolare della musica che poi è stata dimenticata, oppure che adesso mi coglie un po' di sorpresa, però io racconto sempre, che non posso raccontarlo perché dura 20 minuti. Un comprimario, un piccolo tenore, si chiamava Florindo Andreolli, era grandissimo, e lo ricordo perché lui aveva una voce straordinaria, ma era talmente piccolo, e 1,60, e lui ci raccontava e ci faceva morire da ridere, perché diceva: maestro, quando lui era nato ad Adria, diceva: maestro, quando facevo le audizioni cantavo il trovatore, cantava benissimo, però vedevo che in sala i responsabili si guardavano, giustamente ero piccolino, non potevo fare il Radamessi, il capo degli egiziani, certo. E però sono tanti episodi con Florindo Andreolli, che poi fu uno dei più grandi, tra virgolette, chiamati comprimari della nostra storia del melodramma. Certo, quindi molte volte, però anche la piccolezza, Wagner era piccolo, insomma, Napoleone era piccolo, ci sono anche delle piccolo persone... Piccolo di statura, e basta, no? Grandi in altre cose. Grandi in altre cose. Senta, maestro, e tra, diciamo così, direttori d'orchestra, lei chi vuol ricordare con affetto questa sera? Beh, ma sicuramente Carlos Kleiber, perché io, tra l'altro, proprio 20 giorni fa sono stato a trovare la tomba di Kleiber in un piccolo paesino della Slovenia. Della Slovenia, sì. Perché ci ho lavorato, perché mi ritrovavo nell'unghie di Kleiber, un po' di, diciamo, questo grandissimo, questo mito straordinario, musicista unico, e io suonavo in orchestra le tre opere che lui ha diretto, ne ha fatte di più, però poi sono andato via dall'orchestra, lui fece Cavalier della Rosa, Tristano Isotte e Otello, e poi ebbi questo episodio stupendo proprio con lui a New York, che io dirigevo la Bohème e lui la Traviata, e sapeva che il direttore di Bohème era un italiano che era stato nell'orchestra della Scala, e venne in camerino, avevo Kleiber di fronte, dopo che mi fece i complimenti, e questo è onoratissimo, io andavo via a Kleiber e gli dissi: ma cosa dico a Kleiber? Allora lo chiamai mentre lui era già sulla porta, dico: maestro, lui si girò di scatto, e allora gli dissi: anch'io sono un po' pazzo, pazzarello. Lui mi guardò negli occhi e disse: più o meno di me? E allora ho dovuto dirgli: forse un po' meno. E quindi Kleiber, perché è un pazzo musicale, non un pazzo reale. Ah, certo, grandissimo, grandissimo. Eccoci di nuovo insieme, cari ascoltatori, Armando Torno dai microfoni di Radio 24. Questa sera abbiamo in studio qua a Musica Maestro Donato Renzetti, uno dei direttori d'orchestra italiani più affermati nel mondo, e infatti all'inizio ho detto: fare un elenco dei teatri dove ha diretto è praticamente impossibile, conviene dire quelli dove non ha diretto, e abbiamo scoperto che sono veramente pochi, perché dal Covent Garden al Metropolitan alla Scala a tutti i teatri di Parigi pensabili e immaginabili, insomma, veramente Renzetti. E poi, maestro, c'è anche un suo repertorio sinfonico, perché qui abbiamo avuto un piccolo cenno, la nostra è una trasmissione, un incontro, un sorriso, però lei ha un repertorio sinfonico notevole. Beh sì, poi essendo italiano non pensa soltanto all'opera, al melodramma, ma diciamo i brani che ho diretto io sono talmente tanti, tra tutto Beethoven, Mozart, Brahms, Mahler, si spazia, però ci tengo a dirlo, perché essendo italiano uno pensa solamente che l'italiano debba dirigere la musica nostra, ma io ho avuto come maestro il grandissimo Franco Ferrara, sì, che i musicisti conoscono, e a Siena lui mi diceva: chi ha detto che un direttore tedesco fa bene la musica tedesca o viceversa un direttore italiano fa bene l'opera italiana? Non è vero, il vero musicista fa bene tutto. Certo, la musica è musica, insomma, maestro, è così, no? Sì, guardi, devi avere tu la sensibilità di affrontare l'autore. Per affrontare quell'autore devi conoscerlo. Certamente poi nell'arco della vita le partiture si assottiglieranno, nel senso che non posso conoscere un brano se non l'ho studiato, non l'ho realizzato. Poi dopo verranno fuori veramente le pietre miliari tue e quelle dei compositori. In pratica, se io voglio dirigere Brahms, però mi rendo conto che Brahms non è il mio autore preferito, lo faccio male, lo accosterò. Ho detto Brahms a caso, che non è proprio l'autore, che è uno degli autori che amo di più. E io adesso ho lavorato tantissimo, ho fatto moltissimi concerti, adesso so che ci sono quei 30 pezzi e anche forse di più che li riprenderò, li approfondirò nuovamente e aggiungerò altre mie esperienze anche umane sulla musica, perché questo si sente all'esecuzione. E così volessi chiedere a Donato Renzetti: il suo cuore dove è rimasto, su quale brano particolare della musica sinfonica? Inizialmente, provenendo dalla percussione, ho sempre prediletto un po' la musica del Novecento, Stravinsky, Bartok, questi autori, Prokofiev, che non sono ancora così tanto famosi, sì. Ma indubbiamente i romantici sono quelli, la mia natura è romantica, quindi amo molto Mendelssohn. Mendelssohn. E anche Schumann, che è più strumento. diffuso, più introverso. Eh beh, insomma, diciamo così, più problematico. Ecco. Senta, maestro, parlando invece di cose problematiche, tra le dive che lei ha conosciuto, so che c'era la Callas, no? No, beh no, non sono così vecchio. No, no, lo so che non è così, però l'ha vista, l'ha sentita. Ero piccolino, sì, una Medea meravigliosa. La Callas era affascinante non solo vocalmente, perché era, spaziava con la tessitura vocale, poteva fare il Barbiere di Siviglia, per fare la Macbeth, una delle poche al mondo, ma era scenicamente, era così bella, appena si vedeva che tutta l'attenzione era su di lei. Io sono stato un mese, perché stiamo parlando di periodi in cui ero molto giovane, forse piaceva a questa gente, come dicevo prima, di Cappuccilli, di Gauro, mi adottavano, Carmelo Benestesso, ma fui adottato anche da Pippo Di Stefano per un mese. Lui era anzianotto, diciamo, io lavoravo a Palermo, e questo mesetto lui mi raccontò tante cose, anche segrete, che non posso raccontare. Beh, sulla Callas. Lui ebbe una storia con la Callas. Ma lui no? disse che non era una storia. L'opinione pubblica e quei giornali che parlavano di questo, ma lui disse che eravamo grandi amici, e quindi... Basta, perché come dicevo prima non posso raccontare, è un segreto, per carità. Gliel'ho promesso. Allora, senta, come stanno andando queste prove, maestro? No, benissimo, poi un cast stratosferico con il grandissimo Flores, Juan Diego Flores. Quindi cui... tenore Flores. Sì, quindi... bravissimo, la Kurzak, bravissima, tutti gli altri, non sto nominarli, però non abbiamo tanto tempo. No, poi è un'opera delicata, è la penultima opera di Rossini, quindi un'opera che un po' copiata da parte di Rossini, perché è una parte del viaggio a Reims, lui era a Parigi, e quindi certo. Parigi non aveva oltre rifacimenti del Maometto, del Mosè, non aveva mai fatto un'opera per i parigini, e sì, avendo come librettista il grande scribe che aveva scritto più di 400 brani, pezzi, si adoperò e scrisse Le Conte, che ebbe un grandissimo successo a Parigi, in Italia meno, perché c'era questa rivalità fra l'Italia e la Francia. Allora i critici dissero: se piace tanto ai francesi, eseguite quest'opera solamente in Francia. Invece non è stato così, certamente non è il Barbiere di Siviglia Cenerentola come esecuzioni, ma è un'opera molto raffinata, molto di classe, soprattutto nell'orchestrazione, nei fiati, nei legni, questi strumentisti che hanno dei virtuosismi non facili. Ecco, maestro, ma adesso passiamo a Puccini. Ecco. Passiamo a Puccini, perché tra l'altro lei nel febbraio di quest'anno ha diretto Puccini con l'orchestra e il coro a Genova, sì, a Genova, del Carlo Felice. E debuttavo tra l'altro nel Tabarro. Nel Tabarro, sì. Ecco, io ho proprio una registrazione del Tabarro, e adesso ne ascoltiamo un momento, o Luigi. Quella... Luigi. Ecco, Puccini lei come no, lo è trova? Mio autore, il suo autore. Io sono pucciniano, tutti, mi dicevo prima, il direttore deve fare tutto bene, cercare di fare tutto bene. Certamente Puccini è quello che più si avvicina alla mia sensibilità. Io vedo che lei ha inciso per un sacco di case discografiche: Philips, Frequenz, Fonicetra, Nuova Era, Dynamic. Ha vinto il 19° premio della critica discografica italiana. Ha un sacco di DVD con Mozart, sì. con Verdi, con Rossini. Disco di Cherubini. Un disco di Cherubini. Ecco. Un progetto che magari vuol dirci qua questa sera, qualcosa che hai in mente di fare per... Solo segreto. Un piccolo sogno, no, maestro. I sogni sono ancora una... Perché io ho diretto 87 opere, 89 il prossimo anno. Io sfido moltissimi direttori, un pochino. Guardi, soltanto un grandissimo Patanè nel passato aveva diretto 100 opere più. Spero che gli ascoltatori abbiano ascoltato il mio sospiro, perché effettivamente 87 opere tante, è un lavoro ingente. Sono tante, e spero di arrivare a 100, però. Un libro, beh, deve arrivare 100 a 100. Opere. Le mie 100 opere. Non è male, no? E, beh, questo sogno appunto di arrivare a 100 opere, ma non perché... Poi le ho ripetute tanto, abbiamo fatto varie edizioni di ogni opera, tranne qualcuna che è stata singola, ma il sogno sono ancora quelle 7-8 opere che voglio affrontare, ci sono dei progetti, vedremo. E un'ultima cosa, cosa chiede al governo italiano per la musica? Guardi, brevissime. Io ho fatto battaglie per anche nella mia regione, in Abruzzo, con i politici. Il politico non si intende di cultura, e questo è il problema, è la cultura. Io non so se la scuola, già allora non c'era, ma anche oggi nella scuola italiana, che ci fosse un'ora sul melodramma, un'ora che questi ragazzi sentano chi è, studino la vita dei grandi nostri compositori e che sono musicista, quindi parlo solo della musica, ma l'arte è totale, abbiamo l'83% di arte in Italia, ma non ci si occupa di questo perché si pensa solo al denaro, e quindi una nazione senza cultura è una nazione morta. E ripeto una famosa frase di Nietzsche: senza musica sarebbe un errore. La vita, certamente. Certo. Maestro, sa che dobbiamo chiudere, siamo inseguiti dal tempo. È passato così velocemente tutto. Lei però è umanamente spettacolare, glielo posso dire. Beh, chi ci si trova. Ma non vedo perché uno deve cambiare solo perché comanda. Beh, intanto le mando idealmente un abbraccio qui, anche se siamo in faccia alla radio, e penso che glielo vogliano mandare anche tutti gli ascoltatori che l'hanno seguita questa sera. Io ringrazio tutti e venite a sentire la musica, non solo me, tutti i teatri. Guardi che musica maestro l'aspetta ancora. Va bene. Grazie, volentieri, grazie a lei. A risentirci, cari ascoltatori, domenica prossima, come sempre alle 21, un cordiale saluto da Armando Torno e da Donato Rezzetti, grazie.